O. Ascolta e indica la parola che senti. 1. I gatti fanno miau. 2. Il cielo è azzurro. 3. Mi vesto e esco. 4. Mia cugina è in Cina. 5. È un vestito molto chic.